Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È un'edizione speciale del Cacciatore di libri perché è interamente dedicata al Salone del Libro di Torino, dove naturalmente ci troviamo in questi giorni e che si concluderà lunedì. Il tema che è stato dato quest'anno al Salone è le meraviglie d'Italia. Le meraviglie intese come paesaggio naturale, come i monumenti, come anche l'innovazione, l'eccellenza italiana per esempio nel mondo del design, ma anche del cibo. Ed è stato scelto in relazione naturalmente ad Expo 2015. Diversi gli incontri che hanno così celebrato, ma anche raccontato, spiegato in modo diverso, più accattivante, le meraviglie anche nascoste e segrete del nostro paese. Paese ospite di quest'anno la Germania, che è anche il terzo mercato editoriale al mondo, quindi un mercato decisamente importante. E qui a Torino ci sono e ci sono stati scrittori tedeschi di un certo rilievo. Uno su tutti, Daniel Kehlmann, ma ci sono per esempio anche giallisti tedeschi di tutto rispetto. Ma veniamo agli ospiti di questa edizione del Salone del Libro. Quest'anno un'edizione che ha avuto, diciamo, più scrittori italiani, forse di peso, che non stranieri, ma lo sappiamo, siamo in un periodo di spending review, cosa che vale anche e soprattutto per le case editrici. Però fra gli stranieri sicuramente una delle più importanti, Vanessa Diefenbach. Americana di San Francisco. Lei era diventata famosa con il suo primo romanzo, Il linguaggio segreto dei fiori, e adesso ha presentato Le ali della vita, pubblicato in Italia sempre da Garzanti. Sentiamo cosa ci ha raccontato con la traduzione di Raffaella Marchese. I think my favorite thing to do as a fiction writer is to try to come up with characters that are very hard to understand. Come scrittrice, il mio compito è quello di raccontare la storia di personaggi che siano difficili da accogliere. Ogni donna, ogni madre, tutti noi sappiamo e immaginiamo di sapere come una persona debba comportarsi come madre o come donna, e quando incontriamo qualcuno che si comporta in maniera diversa da quello che è il nostro immaginario, immediatamente arriviamo a rapide conclusioni, le giudichiamo. E io stessa, quando ho iniziato ad occuparmi del mio primo figlio dato in affido, ho iniziato a intrattenere dei rapporti piuttosto stretti con la sua madre biologica, una persona che aveva avuto una vita piuttosto difficile, che sicuramente aveva fatto tanti errori, aveva preso decisioni difficili, quindi era facile immediatamente giudicarla e arrivare a rapide conclusioni. In effetti, a poco, conoscendola, capendo qual era il suo vissuto, un vissuto di abusi, di violenza domestica, ho iniziato a capire il perché era diventata la donna che era stata. E quindi la stessa cosa ho voluto fare anche col personaggio di Letty. Ho voluto cioè creare un personaggio che fosse complicato, difficile da comprendere. All'inizio del libro, fin dalle prime pagine, ti rendi conto che ha un comportamento strano da madre, fa delle cose che giudicheremo sbagliate, lascia i suoi figli, ma poi, man mano che la conosci nel corso del libro, ti rendi conto del perché si comporta nel modo in cui si comporta. Children on the first page of the book is considered a bad mother, but really by the end of the book you know she's not, at least I hope you do. Vediamo già insomma all'inizio del romanzo che Letty abbandona i suoi figli perché non si sente una buona madre. Che cos'è che poi nel corso della narrazione, senza svelare troppo della trama, le fa ritrovare la fiducia in se stessa, pensando che anche lei si può occupare dei bambini? So I think that change and personal change is one of the hardest that any human being undertakes. Penso che il cambiamento personale sia sicuramente la cosa più difficile per qualsiasi essere umano. E questo succede anche con Letty, ma succede poco per volta. E in ogni momento, per tutto il corso del libro, Letty, a mio giudizio, fa la cosa giusta, prende la miglior decisione che è in grado di prendere proprio in quel momento. La vediamo all'inizio del libro, quando abbandona i figli, sicuramente non una grande decisione, e poi fa tanti altri errori nel corso del libro, ad esempio si ubriaca insieme al figlio Alex, che ha solo 15 anni, porta la figlia a lavorare in un bar, quindi gli errori ne fa tanti, però in ogni occasione impara da quegli errori, soprattutto impara ad aver fiducia in se stessa. E la stessa cosa vale anche per i figli, quando capiscono che non li vuole più abbandonare, imparano insieme a lei e soprattutto intraprendono questo lungo percorso, questo lungo viaggio insieme alla propria madre. And once they learn that, I think they're willing to go along on the journey with her as she changes her life. life. Sempre fra gli scrittori stranieri, anzi fra le scrittrici straniere, segnalerei in particolar modo Catherine Dunn, che ha presentato in anteprima il suo nuovo romanzo Un terribile amore. Anche lei è una scrittrice molto amata dalle italiane. E poi la maestra del giallo svedese Camilla Läckberg. Occhio di riguardo anche per la francese Malice de Kerangal. Segnatevi questo nome perché il suo romanzo Riparare i viventi è veramente forse uno dei più bei romanzi degli ultimi periodi. Scrittori stranieri uomini, uno su tutti direi Emmanuel Carrère, che al Salone del Libro di Torino ha ritirato il premio Mondello Internazionale che gli è stato assegnato da un altro scrittore, uno scrittore italiano, Antonio Scurati. Anche fra gli scrittori italiani naturalmente dei nomi molto noti, non so, Alessandro Baricco, Stefano Benni, Daria Bignardi, Mauro Corona, Donato Carrisi. E anche uno scrittore ironico che abbiamo spesso intervistato al Cacciatore di Libri, Marco Malvaldi. Lui è l'autore della serie, della saga dei Vecchietti del Barlume, pubblicata da Sellerio. Stavolta invece si è cimentato con lo sport. Lo sport ha raccontato sempre alla sua maniera, sempre con un pizzico di ironia. Il libro si intitola Le regole del gioco, storie di sport e altre scienze inesatte, pubblicato da Rizzoli. Sentiamo Malvaldi. Fondamentalmente io sono uno di quelli che pratica lo sport a 360 gradi, cioè sia come spettatore che come praticante sportivo. Come sportivo pratico il tennis tavolo, tutte le volte che lo dico la gente mi guarda, ride e dice ah, ping pong, io cambio colore, divento verde, parte la mutazione genetica, dopodiché spiego che in realtà è uno sport dove serve una preparazione fisica e tattica mostruosa. Stavo ridendo anch'io infatti. Esattamente, ma questo il quello che avete appena sentito era lo scoppio di un palloncino che ha praticamente forato il timpano del nostro Marco Malvaldi. Questo proprio per dimostrare che siamo veri. Esattamente, siamo veri, autentici e in questo momento vagamente sordi. Quindi la tua domanda era... Insomma, qual è la preparazione muscolare che ci vuole per il tennis tavolo? Beh, bisogna essere in grado di muoversi rapidissimamente perché... Il gioco è, la pallina viaggia alla stessa velocità del tennis, viaggia sopra i 100 km orari, però il tuo avversario è a 2 metri da te, quindi devi essere molto veloce, devi avere un grandissimo senso dell'equilibrio e una grandissima propriocezione. È un po', in più è uno sport tattico, è un po' come giocare a scacchi mentre contemporaneamente stai sciando, più o meno la complessità è questa. Altro scrittore italiano che usa l'ironia, la mescola spesso diciamo al romanticismo, all'analisi introspettiva dei personaggi, è Luca Bianchini. Luca Bianchini è per esempio quello che ha avuto un grande successo con il libro Io che amo solo te, stato pubblicato nel 2014. Tra l'altro vi anticipiamo che Io che amo solo te diventerà un film. A fine maggio, infatti ci ha raccontato Luca Bianchini, inizieranno le riprese del film in Puglia. Il romanzo raccontava di un matrimonio piuttosto, come dire, kitsch, possiamo dire, ambientato a Polignano a Mare, provincia di Bari, e i protagonisti saranno Scamarcio e Laura Chiatti. Ma veniamo invece al romanzo che ha presentato qui al Salone del Libro, il suo ultimo romanzo proprio fresco fresco di stampa, Dimmi che credi al destino, pubblicato da Mondadori. È ambientato a Londra, racconta la storia di una donna a 52 anni che ha insomma una serie di problemi anche sentimentali, fa la libraia, la libreria sta per chiudere e spesso si siede su una panchina per parlare con un signore anziano che lei conosce poco eppure gli racconta tutta la sua vita. Sentiamo Bianchini. Io sono sempre stato affascinato dalla fermata dell'autobus di Forrest Gump, per cui mi piaceva l'idea che ci fosse un momento in cui una persona si ferma e parla con una persona che non conosce bene, e ho incontrato veramente un vecchio a Londra girando per il quartiere dove ho ambientato questa storia, e ho incontrato questo signore che poi io ho chiamato Mr. George, ma non ricordo il nome, che aveva fatto la guerra in Italia, parlava bene italiano e quindi mi sembrava perfetto per ascoltare una donna che ha avuto non una ma mille vite e che ogni giorno più o meno, quando il tempo lo permette, perché a Londra il tempo non è mai sempre clemente, e si siedono insieme sulla panchina a leggere e a parlare. E questo è un momento che scandisce un po' il racconto e la storia, un po' una pausa e con lo sguardo verso l'orizzonte. Londra, libraia, libreria che sta per chiudere, non è un po' un cliché? Certo, io adoro i cliché da sempre, mi piace, questo poi è un cliché anni 90, però questa è una libraia che se poi leggerete scoprirete che è veramente speciale e inimitabile ed esiste veramente, cioè è tratto da una storia vera di questa, si chiama Ornella Tarantola, e beh, e quando se lo leggerete capirete che, cioè le star della sua libreria sono due pesci rossi, uno di nome Russell e uno di nome Crow, e poi uno dei due è morto, che è Crow, e probabilmente è stato Russell a ucciderlo, questo sostiene Ornella. Ricchissima il Salone del Libro, la schiera dei musicisti, ma anche, non so, degli attori, dei registi che decidono di diventare scrittori. Roberto Vecchioni, Vinicio Capossela, Teresa De Sio, ma anche Mischilla e Morgan. Fra le chicche di questo 28esimo Salone del Libro mi piace segnalare anche l'inedito, la presentazione dell'inedito postumo di Giorgio Faletti, si intitola La Piuma, pubblicato da Baldini e Castoldi. Ne ha parlato la moglie, Roberta Bellesini, precisando che si trattava di un'opera che era già fatta e finita prima della scomparsa di Faletti. Questo libro esisteva già, era un progetto al quale Giorgio lavorava, tra virgolette, nei momenti di pausa tra un progetto e l'altro. Era un progetto molto articolato perché nella sua testa doveva essere soprattutto un musical. E quindi lui aveva cominciato a lavorare alla parte scritta, quindi aveva steso, c'era stata la stesura della storia, quindi la creazione di questi personaggi, ma quella appunto voleva essere la base poi per lavorare a un progetto più ampio, quindi con dei testi musicali, delle musiche e delle canzoni vere e proprie. Una breve pausa e poi parleremo ancora del Salone del Libro di Torino. Il cacciatore di libri. C'è uno spazio al Salone del Libro di Torino a cui sono molto affezionata, il Bookstock Village, è lo spazio dedicato ai piccoli lettori, che poi in realtà tanto piccoli non sono, diciamo dagli 0 ai 20 anni, quindi c'è sia la letteratura prescolastica, i libri per bambini, poi delle scuole elementari, medie, ma anche la cosiddetta Young Adult, cioè quella letteratura per adolescenti e post-adolescenti che veramente ormai incide tanto sul mercato. Qualche anno fa c'era stato per esempio il fenomeno dei vampiri. Negli ultimi anni una delle autrici americane che è molto amata dalle adolescenti anche italiane è Jamie McGuire, è l'autrice di libri come Uno splendido disastro, Il mio disastro sei tu, Un disastro è per sempre. Adesso è uscito in Italia il primo volume di una nuova trilogia che si intitola Una meravigliosa bugia. E questi sono libri, diciamo, libri rosa per adolescenti, insomma piacciono moltissimo ad un pubblico di ragazzi, di ragazzine, il cosiddetto genere romance. Prima ancora di parlare di altri libri per bambini e ragazzi, vi segnalo che qui al Salone del Libro a Torino c'è stata forse la scrittrice italiana più giovane, almeno che io ricordi, si chiama Bianca Chiabrando, ora ha 15 anni ma ha scritto questo libro a 13 anni, si intitola Il caso terza A. Che cosa ha fatto questa ragazzina? Durante le scuole medie ha iniziato ad osservare i suoi compagni di classe e a descriverli in modo molto molto ironico, inserendoli nelle categorie della moderna psichiatria. Questo perché aveva trovato a casa un libro di sua mamma, insomma di Freud. Ora Bianca Chiabrando frequenta il secondo liceo classico musicale, ma appunto questo libro, Il caso terza A, era riferito ai suoi compagni della scuola media. E allora sentiamo la scrittrice italiana, forse la scrittrice italiana più giovane, che vi assicuro ha una consapevolezza di sé da fare invidia, insomma, anche a persone decisamente più grandi. Mi trovavo in una classe di pazzi furiosi. E io in terza media non avevo mai avuto il coraggio di rapportarmi con loro perché li vedevo come entità aliene, cose che impossibili. Nello stesso periodo in cui ho iniziato a scrivere questo libro, ho trovato a casa, visto che mia madre fa la psicologa, dei libri di Freud e di Jung, e li ho sfogliati, alcuni li ho proprio letti, e mi sono appassionata tantissimo di questa cosa. E ho detto, beh, perché non proviamo a fare una cosa omologa, seppur ovviamente non nello stesso livello, simpatica, su di loro, perché erano effettivamente delle cose strane che andavano analizzate. Facciamo degli esempi, che cos'è che ti colpiva dei tuoi compagni di classe? Non riuscivano a stare fermi. Io invece ero molto pacata, lo sono ancora, comunque stavo normale, sentivo la lezione. Invece loro avevano come questo desiderio di esplodere, di fare cose, si arrampicavano sugli armadi, cominciavano a urlare oppure si mettevano in piedi sulla sedia e facevano dei balletti. E quindi, non lo so, io li reputavo troppo strani, quindi... E che cosa hai raccontato in questo libro? Cioè, che cosa, a chi li hai paragonati? Che analisi hai fatto dei tuoi compagni di classe? Allora, come esempio posso portare Gomma, che è il primo che ho analizzato, che era un ragazzo che dormiva sempre e praticamente la sua vita era dormire, andare in bagno tutto il giorno. E essendo che non mi parlava mai, l'ho chiamato lo psicoapatico. Perché insomma c'era già il termine, basta aggiungere qualche lettera e veniva qualcosa di perfetto. Quindi ti sei inventata insomma dei termini anche quasi psichiatrici. Sì, perché comunque l'idea era di fare un trattato psicologico ovviamente finto, ma per renderlo più realistico servivano i nomi, le categorie che non c'erano ancora nella scienza. I tuoi compagni come hanno reagito quando hanno visto la pubblicazione del tuo libro? Sorprendentemente bene. Perché non si sono offesi per niente, anzi hanno riso, hanno tanta autoironia, quindi sono stati felici e si sono sentiti celebrati e quindi erano tutti su di giri. E in realtà alcuni, coerentemente con la loro personalità, tipo Gomma, non è che hanno fatto tanti segni, non hanno dato segno di entusiasmo, cioè era felice però non ha esternato il suo entusiasmo coerentemente appunto con la sua personalità. Ma quest'anno il Bookstock Village si è dato anche un tema, ossia prendere posizione contro l'ingiustizia, contro le brutture del mondo, insomma prendere posizione da parte dei giovani. Quindi ci sono stati anche libri che hanno affrontato temi impegnativi. Penso per esempio a Luigi Garlando, che è un giornalista sportivo italiano, scrive molti libri per ragazzi, soprattutto la serie Gol, ma che qui a Torino ha presentato L'estate che conobbi il Che, ossia un romanzo in cui Che Guevara viene spiegato ai ragazzi. 10 anni fa Garlando aveva scritto invece un romanzo in cui spiegava la mafia e la figura di Falcone sempre agli adolescenti. Sentiamo Garlando. Proprio perché per età e per costituzione i ragazzi sono quelli più disposti a impegnarsi, a credere all'ideale, all'utopia. Io una decina di anni fa ho proposto un altro libro che ha avuto molta fortuna nelle scuole, che è quello su Giovanni Falcone, ed è stata sorprendente la risposta dei ragazzi, insomma come hanno accettato la sua battaglia ideale, come l'hanno amata. E quindi e lo stesso Giovanni Falcone andava nelle scuole, Borsellino, perché sapevano che i ragazzi sono i primi soldati antimafia, perché sono i primi in grado di abbracciare la legalità, e solo un'educazione a lungo termine contro l'illegalità, contro la mafia, può irrobustire i cittadini di domani. Quindi anche Falcone sapeva insomma che le risposte migliori spesso arrivano dai ragazzi. L'impegno e l'attualità naturalmente sono stati protagonisti anche degli incontri, diciamo, per adulti, non solo nello spazio dei ragazzi. Si è parlato di mafie, si è parlato di corruzione e si è parlato moltissimo di migrazione. Un libro, per esempio, La scelta di Katia, scritto da Katia Pellegrino, pubblicato da Mondadori Electa. Katia Pellegrino è un tenente di vascello che ha raccontato in questo libro una sorta di diario di bordo quando è stata al comando di nave Libra e ha tratto in salvo oltre 200 migranti durante un nubifragio nel Mediterraneo. L'aneddoto che ricordo e che magari rende un po' l'idea è quello del bambino di un anno e mezzo circa, che aveva un piccolo salvagente, proprio i salvagenti piccolini per bambini, era tutto bagnato e non si riusciva a toglierglielo. Io lì per lì ho immaginato che fosse perché per lui quella era la salvezza. Magari i genitori prima di quando gliel'hanno messo gli hanno detto: mi raccomando, non te lo togliere. Lui in quel momento non aveva i genitori, era solo, non sapevamo se i genitori fossero vivi o no, e i miei uomini, che erano tutti padri di famiglia, lo avevano adottato e cercavano in tutti i modi di toglierlo. Lui ogni volta a piangere, non smetteva più. Siamo riusciti a toglierlo quando alla fine, dopo ore e ore, si è addormentato e l'abbiamo cambiato, che era bagnatissimo. Quello è stato l'esempio dell'attaccamento alla vita, cioè la cosa che mi ha fatto più pensare a che cosa devono aver vissuto queste persone che aspettavano il soccorso o che guardavano gli attimi scorrere via e non sapevano se ce l'avrebbero fatto o meno. Questo bambino era l'esempio dell'attaccamento alla vita, che in quel caso era il salvagente. La decisione più difficile che ha dovuto prendere? Quando il mio ufficiale in seconda, dal mezzo, dalla motobarca, mi ha detto: comandante, che cosa faccio? Ci sono i morti, ci sono i vivi, non c'è spazio, e togliamo la precedenza ai vivi. E vorrei chiudere questo speciale del Cacciatore di Libri, dedicato al Salone del Libro di Torino, 28ª edizione, con una punta di ottimismo, almeno per quanto riguarda il mercato editoriale. Sappiamo, il mercato sta andando male negli ultimi 2-3 anni, sta perdendo circa il 7% all'anno, però ci sono buoni segnali per quanto riguarda i primi 4 mesi del 2015, nel senso che il segno meno c'è, ma è arginato ad un meno 4%. Prima dicevamo era sul meno 7%, quindi forse qualcosa si sta muovendo. E a proposito di ottimismo, di ottimismo ha parlato il Presidente della Repubblica Mattarella quando ha inaugurato il Salone del Libro di Torino. Di ottimismo ha parlato anche il direttore editoriale del Salone, Ernesto Ferrero, sottolineando che gli editori sono obbligati ad essere ottimisti perché, insomma, non hanno mai avuto vita facile. E a proposito dell'industria editoriale italiana, Ernesto Ferrero ha voluto sottolineare che quello dell'editoria è un problema di priorità nazionale, deve essere per i governi una priorità nazionale. Sentiamolo. La questione non investe uno specifico comparto industriale fra i tanti, è un problema di priorità nazionali. La filiera del libro è qualcosa di diverso e speciale, è in una ideale scala di valori il primo dei fornitori della Repubblica, perché produce la materia prima intellettuale indispensabile per la formazione dei nuovi cittadini, che dovrebbe essere la preoccupazione primaria di uno Stato civile, perché un paese vale per quello che sa. Ed è veramente tutto per questa puntata del Cacciatore di Libri, puntata speciale dal Salone del Libro di Torino, che, lo ricordiamo, chiuderà i battenti lunedì sera. Trovate anche questa puntata, come sempre, su podcast radio24.it. C'è, come sempre, Facebook, il Cacciatore di Libri trattino Radio 24, diffidate delle imitazioni, mi raccomando, e potete ovviamente seguirmi su Twitter per essere sempre aggiornati. Una buona lettura da Alessandra Tedesco. Disco.